Guarda, la differenza fondamentale è che i dakariani nel cuore hanno sempre l'Africa. La differenza fondamentale sta proprio, come dicevi te poc'anzi, è il discorso del pubblico. In Africa corri in ambienti molto estesi, ma ovviamente privi di popolazione. In Sud America invece il pubblico si fa proprio sentire, ci sono circa 5 milioni di persone alla partenza, c'è una folla che è una cosa esagerata, il calore lo senti proprio, bandiere dappertutto, suonano, trovi la gente in mezzo ai monti, in mezzo ai prati, cioè è veramente affascinantissimo sotto il punto di vista del pubblico. E io dubito che l'organizzazione la sposti a brevissimo termine questa manifestazione da questo posto, perché veramente il riscontro pubblicitario che hanno è veramente altissimo.